Vista da lontano, la loro auto è solo un piccolo puntino blu a ridosso di un enorme palazzo grigio. Con un po' di zoom si può notare che il piccolo puntino blu, in realtà, è una specie di mattoncino dei Lego con gli angoli che sparano dei flash arancioni. A ben vedere, la Peugeot 107 del sindaco risulta parcheggiata nel bel mezzo di un'area pedonale, sotto lo sguardo severo di un centro commerciale di dimensioni sproporzionate, a cavallo dell'imbocco di due sottopassaggi discretamente trafficati. A giustificare il folle gesto, il lampeggiare delle quattro frecce che in Italia significano tutto è lecito. L'acrobatico parcheggio, da un punto di vista psicanalitico, significa invece ci siamo persi, ma non vogliamo ammetterlo. La dinamica dei fatti è però un po' più complessa. I lionesi danno appuntamento al sindaco e al portavoce, indicando loro una stazione che non c'è. E se c'è, è ben nascosta. I due non la trovano e per protesta parcheggiano nel primo posto che capita. Un parcheggio che non c'è.